Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Mescolano robotica, architettura, ingegneria delle costruzioni e dei materiali. Sono i ricercatori di Index Lab, il laboratorio sperimentale del Politecnico di Milano che si occupa di immaginare i sistemi costruttivi innovativi. A Index Lab, insomma, si cerca di immaginare come si costruiranno gli edifici di domani ed è lì che andiamo stasera per vedere qualche esempio, quindi, di quello che potrebbe aspettarci in futuro. E lì, naturalmente, si trova il nostro ospite di stasera, il direttore di Index Lab, Pierpaolo Ruttico. Buonasera. Buonasera. Allora, che tipo di ricerche fate lì a Index Lab? Diciamo, intanto, lavorate in un settore, quello delle costruzioni, che non è famoso proprio per la sua rapidità di reazione alle innovazioni, no? Siete molto avanti da questo punto di vista. Sì, esatto, è un settore che ha molta inerzia, ma cerchiamo di fare il nostro meglio per portare innovazione di progetto, processo e prodotto, e facciamo da tramite tra gli studi professionali, architetti, ingegneri e designer, l'industria e la manifattura. Ecco, ma tutto questo rischia di suonare un po' così astratto. Vediamo qualche esempio. C'è una delle tecniche costruttive su cui state lavorando che voi chiamate dei casseri a perdere. Ce ne puoi parlare? Immaginiamoci ad esempio un pilastro di un edificio, una colonna, e immaginiamola di una forma particolare, per esempio tortile, che si avvolge a spirale. Ecco, noi possiamo realizzare un cassero che è quella roba che normalmente si fa di legno, con le assi di legno, no? In cui si cola il cemento, appunto. Esatto, invece che utilizzare le assi di legno noi utilizziamo il carbonio. La tecnica che abbiamo sperimentato consiste nel prendere dei blocchi in polistirene, che è un materiale morbido che viene utilizzato solitamente per isolare gli edifici. Lo tagliamo con un robot a controllo numerico, dandogli la forma necessaria, e poi andiamo ad avvolgere la forma costruita con un filamento in carbonio. Dopodiché, quando il filamento in carbonio ha avvolto la colonna, andiamo a sciogliere il materiale all'interno e a gettare il calcestruzzo. In questo modo otteniamo un sistema materiale composto da calcestruzzo, che lavora con pressione, e carbonio all'esterno, che lavora a trazione. Quindi sostanzialmente scolpite un blocco, chiamiamolo così, di polistirolo, gli avvolgete intorno la fibra di carbonio, poi eliminate il polistirolo e vi resta solo la superficie esterna, la struttura esterna, che a quel punto riempite di calcestruzzo. Ecco, quali sono i vantaggi ad un approccio del genere, che sembra persino più complicato dell'originale? I vantaggi sono numerosi, ad esempio la possibilità di avere delle geometrie sempre diverse e una finitura di elevata resa estetica e funzionale, il risparmio di tempo nella fase di casseratura e l'eliminazione della fase di scasseratura, perché appunto rimane il cassero a perdere, e ovviamente le caratteristiche strutturali che andiamo ad ottenere. Che sono molto importanti. E infatti forse cassero a perdere è anche un po' riduttivo, perché lì la fibra di carbonio rimane, come continua a fare il proprio lavoro, no? Esatto, quindi nei pilastri la casseratura in fibra di carbonio ha una funzione che si dice di cerchiatura, il che consente di ottenere dei pilastri con le stesse capacità statiche ma a sezioni inferiori, e l'eliminazione dell'armatura trasversale, quindi ci permette di ottenere delle colonne più leggere. Ecco, quanto più leggere, quanto si può ridurre la sezione, quindi anche il peso sostanzialmente della struttura? Sì, abbiamo fatto delle prove a compressione e colonne cerchiate in carbonio resistono fino a 3 volte rispetto alle altre, quelle non cerchiate. A parità di sezione, quindi anche a parità di peso, e in un paese sismico dove ogni oggetto pesante, come dire, non è il benvenuto, perché quando arriva il terremoto è sempre un problema da gestire, anche tecniche, diciamo, di costruzione un po' più leggere sono senz'altro interessanti. È un'applicazione possibile questa? È un tema che c'è? Assolutamente sì, ha toccato un argomento, diciamo, centrale nella nostra ricerca, e ci auspichiamo che nel futuro si diffondano questi metodi e che gli edifici diventino sempre più leggeri e sicuri. Ecco, oggi per capirsi però non ci sarebbero neanche le normative per fare, io temo, no? Un lavoro di questo genere, sbaglio? Esatto, esatto. Mm. Il tema è molto delicato, ci si sta lavorando, anche il Politecnico di Milano sta e nelle commissioni per generare queste normative. Dunque, voi avete veramente tanti studi in corso, vi occupate tra le altre cose di acustica, e anche qui con un approccio simile a quello che abbiamo descritto ci potrebbe essere qualche novità in arrivo. Sì, esatto. Per l'acustica è molto importante definire quella che è la forma e la geometria e anche la prestazione del materiale. Quello che noi facciamo è un processo di progettazione e realizzazione di pannelli di nuova generazione. Pannelli acustici, quindi quelli che si vedono, no, negli ambienti, nei cinema, quelli tradizionali hanno la famosa forma a piramide, per capirsi. Voi lavorate, esatto, su qualcosa del genere, ma molto più sofisticato. Molto più sofisticato, nel senso che riusciamo a calarci in un luogo che ha delle esigenze di performance acustiche in modo intelligente, per cui generiamo degli algoritmi che studiano come dare forma a questi pannelli, li realizziamo a livello robotico e con nuovi materiali e nuove tecnologie. Benissimo, grazie per intanto per Paolo Rutico, ma ci risentiremo senz'altro. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Buona serata.